Friuli nel mondo, 237esima trasmissione dedicata agli emigrati. Voci canore dell'altro Friuli. Anche questa volta è una voce, anzi più voci, che arrivano a voi dal Canada, cari amici emigrati. L'inesausta passione tradizionalista del valoroso cultore del nostro folklore, Agostino Venier, che già nel 1961 diede vita a Toronto al coro Santa Cecilia, con la preziosa collaborazione del compianto professor Lino Springolo, ha procurato a noi, residenti in Friuli, e a voi, lontani dalla terra natale, la gioia di riascoltare, dopo lungo forzato silenzio, il coro che tanti successi raccolse nei maggiori centri del Canada. Si presenta a noi nella sua rinnovata composizione di oltre 40 elementi, diretti dal giovane maestro Giuseppe Macina. Inutile sottolineare che si tratta di lavoratori, tutti friulani, che grazie al generoso appoggio delle autorità canadesi hanno potuto recentemente realizzare l'incisione di un disco, dal quale ricaviamo, con pensiero di commossa riconoscenza per questi nostri emigrati, alcuni motivi. Ecco il Chant de Philologiche Furlane di Arturo Zardini, su parole di Bindo Chiurlo. Lontan Lontan di Franco Escher è il canto struggente di nostalgia e di tristezza che ha accompagnato le migliaia e migliaia di nostri corregionali che all'inizio del secolo partirono all'avventura verso paesi sconosciuti d'oltreoceano. Oh. In C'è mattine di Arturo Zardini, i cieli e i paesaggi inconfondibili del nostro Friuli sono raccolti come in un ricamo. I cieli immensi narrano di Benedetto Marcello. È la classica, notissima composizione del grande musicista, in esaltazione della natura e delle meraviglie dell'universo e in lode del creatore. La Montanara, nell'armonizzazione del maestro Ortelli. Non v'è bisogno che questo canto sia presentato. Esso accomuna nei momenti di riposo i cuori dei lontani, tesi alle montagne del paese abbandonato. Abbiamo trasmesso Friuli nel mondo, a cura di Ottavio Valerio.